Io sono bolognese puro sangue e sono sicuro di fare delle cose buone per Bologna. Innanzitutto i vigili smetteranno di fare le multe e appena possibile smetteranno di fare i vigili, perché non servono a niente se non a fare delle multe. A Bologna le multe non potranno più farle i vigili. Certo che questi parlano buffo! E per forza, sono di un'altra regione! Giorgio, ma dove è passata la Pasquetta quest'anno? Ma che ne so, mi hanno portato di là dalle montagne! Allora sei andato in Emilia! In Emilia Romagna! Grazie, che a Roma si magna, lo sapevo pure io! E ti è piaciuto il viaggio? Ma guarda, a me i posti mi sembrano tutti uguali. Siamo saliti su una strada di montagna e poi siamo scesi in una pianura gigante. E beh, anche noi viviamo in una pianura, che differenza c'è? Mi fai venire in mente una storia. La storia delle scimmie che si mettono in viaggio. Francesco, ti ricordi come cominciava? Cominciava così. Un giorno le scimmie dello zoo decisero di fare un viaggio di istruzione. Cammina cammina si fermarono e una domandò: cosa si vede? La gabbia del leone, la vasca delle foche e la casa della giraffa. Com'è grande il mondo e come è istruttivo viaggiare. Ripresero il cammino e si fermarono soltanto a mezzogiorno. Cosa si vede adesso? La casa della giraffa, la vasca delle foche e la gabbia del leone. Com'è strano il mondo e come è istruttivo viaggiare. Si rimisero in viaggio e si fermarono solo al tramonto del sole. Che c'è da vedere? La gabbia del leone, la casa della giraffa e la vasca delle foche. Com'è noioso il mondo. Si vedono sempre le stesse cose e viaggiare non serve proprio a niente. Per forza! Viaggiavano e viaggiavano, ma non erano usciti dalla gabbia. Non facevano che girare intorno come i cavalli della giostra. E in Emilia dove sei andato? Boh, che ne so. So che era una città dove ci fanno cacio e prosciutti. Ma allora sei stato a Parma. Ma la sai qual è la capitale dell'Emilia-Romagna? Ma che ne so, a Parma c'era scritto dappertutto Parma-Palermo, sarà Palermo! Guarda che quello era il cartellone della partita, Parma-Palermo di Serie B. Ma la capitale dell'Emilia-Romagna è Bologna. Bologna? Ma io sapevo che è il nome di una mortadella! A proposito di mangiare... Sai cosa successe una volta a Bologna? Ma che sarà successo? Mo sono finiti i tortellini! Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato, proprio in Piazza Maggiore. I bambini venivano da lontano a dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata. Il fumo dei comignoli era zucchero filato e i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato. Le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una, finché il tavolo non gli crollò addosso con tutti i piatti. E i piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune, a un certo punto, si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano i rivoletti rosa. Presto, gridò la guardia, più presto ancora! E tutti giù a leccare più presto, per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro. Una poltrona! Implorava una vecchiettina. che non riusciva a farsi largo tra la folla. Una poltrona per una povera vecchia. Chi me la porta? Coi braccioli, se è possibile. Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio. E la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello. E per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna. Ma io so che a Bologna le cose diventano nere per la vergogna. Mi sembra che dica così un vecchio proverbio. Guarda che i proverbi non sempre hanno ragione. Ma che, lo sanno tutti che i proverbi sono la saggezza dei popoli. Sentite questo: Bologna è grassa per chi ci sta, ma non per chi ci passa. In effetti a Bologna danno delle belle scoppole. Chiedetelo agli studenti fuori sede. Sì, vabbè, però senti questa storia. Sentenziava un vecchio proverbio: di notte tutti i gatti sono bigi. E io sono nero, disse un gatto nero attraversando la strada. È impossibile, i vecchi proverbi hanno sempre ragione. Ma io sono nero lo stesso, ripeté il gatto. Per la sorpresa e per l'amarezza, il vecchio proverbio cadde dal tetto e si ruppe una gamba. Un altro vecchio proverbio andò a vedere una partita di calcio. Prese da una parte un giocatore e gli sussurrò nell'orecchio: chi fa da sé fa per tre. Il calciatore si provò a giocare a pallone da solo, ma era una noia da morire e non poteva vincere mai. Perciò fece ritorno in squadra. Il vecchio proverbio, per il disappunto, si ammalò e dovettero levargli le tonsille. Una volta tre vecchi proverbi si incontrarono e avevano appena aperto bocca che cominciarono a litigare. Chi ben incomincia è a metà dell'opera, disse il primo. Niente affatto, disse il secondo. La virtù sta nel mezzo. Gravissimo errore, esclamò il terzo. Il dolce è in fondo. Si presero per i capelli e sono ancora là che se le danno. Poi c'è la storia di quel vecchio proverbio che aveva voglia di una pera e si mise sotto l'albero. E intanto pensava: quando la pera è matura, casca da sé. Ma la pera cascò soltanto quando fu marcia fradicia e si spiaccicò sulla zucca del vecchio proverbio. E lui, per il dispiacere, diede le dimissioni. Ah, che bello che leggiate i giornali! Lì sì che non ci sono scritte panzane! E poi è bello ascoltare delle notizie, ascoltare dei fatti e non delle favole! Guarda che queste sono favole! Sono le favole al telefono di Gianni Rodari!